anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat per il vostro sabato, il vostro e il nostro sabato sera qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Basement Records e questa è la sigla ritrovata di Basement Records, Psyché Rock di Lazy Peck Sound, ritornato dopo tanto tempo qui a girare sui piatti della regia di Wombat. C'è un fastidioso ritorno. Ah, perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto, ero io, era colpa mia. Fortunatamente qui a fianco a me stasera sono coadiuvato da un professionista del mestiere, come avete appena potuto appurare, se no avremmo fatto tutta la puntata con questo fastidioso ritorno dentro le casse. Qui a fianco a me il mitico Leo, che ci ha portato vinili di recupero da casa propria, dai tuoi genitori, da giusto? Genitori. Buonasera a tutti. Buonasera. Salve. Sì, erano di recupero a casa di mamma e papà. Li ho recuperati lì. E sì, sono loro. Sono loro, quindi in perfetta linea con il modus operandi di Basement Records, ma come tutte le puntate, prima di cominciare ricordiamo i modi per mettersi in contatto qui sulle frequenze di Radio Wombat, la frequenza in onde mediocri per gli amici, per la zona di Firenze è sempre 1359 1359, sulla vostra autoradio rigorosamente in AM, e per i podcast e lo streaming il sito è sempre radiowombat.net. Per mettervi in contatto con noi, i nostri contatti sono sempre la mail, ovvero postawombat@insiberia.net, e i nostri canali social sono sempre attivi per farvi conoscere le ultime novità della radio, e sono su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Però qua sul piatto già il primo reperto vinilico portato qua dal buon Leo, e bellissimo perché un artista di cui praticamente continua a non conoscere praticamente niente, se non il fatto di vedere sulla copertina che in questo caso, in questo disco, è accompagnato dalla The Ram Jam Band, che io, appunto, dicevamo prima fuori onda, identificherei con la band della One Hit Wonder Black Betty, ovvero che avevano fatto solo quella di famosa, entrata nelle classifiche, ascoltata e riascoltata per i successivi 40 anni, per chi più ne ha più ne metta, credo che siano loro, e alla voce un certo Dave Cash, che non conosco, però appunto il titolare di questo vinile di recupero è appunto questo Gino Washington. Che ha un, cioè, da come è stampato anche il nome lì sopra, è importante, non si può vedere, ma la copertina è meravigliosa, un fondo nero con Gino Washington scritto in giallo, rosso, bianco, e lui che canta urla sotto in una foto di un live. Sarà uno shouter, lo scopriremo. Penso di sì. A vedere dalla fosa potrebbe essere. E mi stavi raccontando fuori onda, appunto, che questo è un vinile di una registrazione live di un concerto. Sì, ho cercato quando è stato registrato, ma non ho trovato informazioni. Sul disco non riporta niente. E quindi è un live a sorpresa, dove è stato registrato questo live, non ho trovato indicazioni. No, non ci sono né dentro né fuori dalla copertina, abbiamo niente, e allora non possiamo fare altro che ascoltarcelo e commentarlo successivamente, direi di sì, dopo lo sprint che ci avrà dato. E infatti la canzone del lato A che siamo andati a scegliere è l'ultima, è Land of Thousand Dances, che così ha nome, appunto, stavo dicendo a Leo, mi sembra che sia un grandissimo successo di un artista sicuramente americano, però che in questo momento, ahimè, causa l'età e causa la memoria, non mi viene in mente, e quindi per adesso ci andremo a ascoltare Land of Thousand Dances di Gino Washington and the Ram Jam Band qui a Tonight Alive, anzi no, not Tonight Alive, a Basement Records, Radio Wombat, with Leo. Yeah, all right. Yeah, I shake that thing. Yeah. le vecchie canzoni duravano poco. Poi tratto dal live, un pezzo, il disco va diritto così dall'inizio alla fine. Questo brano poi riprende nel lato 2, e continua, poi fa interagire il pubblico in una maniera... Anche perché appunto questo la Sì, era quello, era l'incipit di vai. Aspetta. Ma ha fatto simpatia però, aveva un tiro molto bello, credo. Però mi poteva venire in mente che James Brown ci sarebbe potuto andare avanti un quarto d'ora, 20 minuti buoni su quel la. Senz'altro. Con lui ha tagliato un po'. Con l'interazione del pubblico, sicuramente. Però immagino... Ma me lo sono immaginato così ascoltando, non conoscendo lui e niente, che... probabilmente un bel live. Sì, bello, doveva essere bello tirato, sì. Un rhythm and blues forte. Così, mi ha fatto molto. Allora, simpatia. Possiamo dire che è stato l'ultimo, uno delle ultime cose che hanno fatto i Rem Jam prima di sparire nella loro pensione dorata di Black Betty, via. Esatto. Che hanno fatto quella, hanno assicurato la pensione a loro e alle loro generazioni successive, a molte generazioni, con gli introiti dei diritti d'autore di quel successo. Chissà come sarà andata a Gino Washington. Non credo altrettanto... Tanto bene, no? No, bene, cioè, sicuramente bene, non altrettanto copiosa. Come i Rem Jam. Allora, già qua piazzato... C'è un altro nome noto in generale della scena musicale di quegli anni, ma specialmente conosciuto anche qua in Italia, che appunto era comparso nelle trasmissioni televisive con l'esplosione del rock and roll, tra virgolette, nella televisione pubblica italiana. Perché l'avevano preso un po' come tipo facciamo moda con il rock and roll. Sì, quindi con una ventina d'anni di ritardo almeno, rispetto al mondo anglosassone, come tutte probabilmente. Le cose, no? Anche il frigorifero è arrivato dopo qua. Quindi... appunto. Torna. E quindi qua abbiamo Rocky Roberts con... vedo che la band è... La band... Airedales del sabato sera. Esatto. Io credo nome sia... Nome promette bene, eh? Promette bene. Credo sia proprio una parte che a lui... Perché lui era... Vabbè, era di là, no? Un po' americano. Alabama del 41. E... avevo letto che nel 65 è stato scoperto e trovato da i nostri Renzo Arbore e Gianni Boncompagni e portato un po' al successo in Italia, anche in quegli anni questa musica qui stava prendendo campo. Mi viene in mente Bandiera Gialla, Stasera Mi Butto. Sì, queste robe qua. Queste situazioni qua. La radio di Bandiera Gialla è dove lui ha esordito dopo l'accordo che fecero poi discografico con loro. Quindi questo disco, che è del 67, viene giusto un attimo dopo a questo contatto, conoscenza. Ah, quindi infatti in questo vinile c'è anche quella famosissima canzone che è... Aspetta che recupero. Con quell'accento tutto molto... Stasera mi butto. Stasera mi butto. Ah, è vero. Stasera mi butto. Stasera mi butto. Non ho scelto quella. Però. È lui comunque, è lui. Rocky Roberts. È lui. Allora andiamoci ad ascoltare Reach Out I'll Be There, che era dei... conoscete anche queste. Four Tops. Prima, non è giusto. Vedi? Impariamo un sacco di cose. Bene, questo è Rocky Roberts con Reach Out I'll Be There, qui a Basement Records, Radio Wombat. Because all your hope is gone, and Questo era il buon Rocky Roberts con Reach Out I'll Be There dei Four Tops, cioè reso famoso via nella versione più famosa che è stata registrata, diciamo, è quella dei Four Tops. Esatto. Però quasi un po' melanconico questo brano. Sì, no, però c'aveva sempre quella bella spinta, devo però dire. C'è un po' di tristezza comunque. Cioè a me la ricorda così, ma poi sono le cose. No, ma anche quella sembra abbastanza conforme all'originale comunque. Sì. L'ha reinterpretata, ma è diciamo abbastanza simile alla versione originale dei Four Tops. E visto questo ritrovamento di Rocky Roberts, si diceva di farvi ascoltare un altro suo brano, che avendo ovviamente la memoria di un pesce rosso mi dovrai coadiuvare a ricordarmi qual è, perché già non me lo ricordo più. Parliamo del secondo brano dell'altro lato, che è Can't Ask No More, che ha un tiro un pochetto più sprint. Ne avevo selezionate un po' di più di lui, perché in realtà mi aveva fatto molta simpatia. No, era simpatico, dai. Buon compagno, al di là del soggetto. Di tutto l'insieme. Sì, di tutto l'insieme, però effettivamente come talent scout e come orecchio non... Può essere... No, mi metto un punto interrogativo. No, vabbè, capisco. Erano cose che sicuramente tiravano commercialmente. Devo dire che l'orecchio per cosa mandare in radio non gli mancava, delle considerazioni del soggetto in questione. Però almeno quello penso di doverglielo riconoscere, ecco. Sì, cioè l'orecchio e il fiuto non poteva fare per quello che funzionava ce l'aveva, ecco. Va bene, infatti c'era. È andato benino. Sì. E quindi questa è sempre del buon Rocky Roberts, questa è Can't Ask No More, sempre qui a Radio Wombat, Basement Records. Sometimes you won't. No, I've left you all on my own. I can't ask no more. Can't ask no more, baby. Can't ask no more. Hey, oh, my. Sitting here thinking about things you do to me. Oh, era finita. Questa era Can't Ask No More, sempre di Rocky Roberts. E qua sull'altro piatto, ormai da quando funzionano tutti e due i piatti, ma in regia è una grandissima festa. Quindi se no dovevamo aspettare ora. Non devo dire più tergiversiamo, un sacco. Lo facciamo perché lo vogliamo fare. Esatto, proprio per scelta artistica, diciamo. E qua sull'altro piatto del giradischi della regia di Radio Wombat è già presente il prossimo vinile. Tra l'altro ti devo svelare una cosa che è successa, di cui mi sono accorto giusto in questo momento. Allora, saprai che la sigla di Basement Records, sì, appunto, Psyche Rock, per farla come... Ho già capito. Per farla come la sigla di Futurama, okay, deve essere ficciata a più 5. Tutto quello che avete sentito fino adesso è andato a più 5, sappiatelo, non era... Cioè, Rocky Roberts sì, ce l'aveva la pompa, però ce n'aveva un po' meno rispetto a come l'avete sentita stasera. E tu che stasera... me lo giavi, perché io ti avevo tagliato le basse e non mi ero accorto che stavo ascoltando picciato. Sempre qui, a Radio Wombat! Ma torniamo a noi... con la nostra Daniela Davoli. E la prima cosa che appunto dicevo al nostro buon Leo qui accanto a me, la prima cosa che ho notato è che l'autore di tutti i brani contenuti... No, invece la dico per prima. Invece la dico per prima. Se l'ha detto di non dirla, ma no, la dico per prima. È che il primo autore di ogni singolo brano di questo album di Daniela Davoli, che si intitola Mia, tra l'altro, ancora non l'avevamo detto, è niente po' di meno che Luciano Malgioglio. Cristiano Malgioglio, scusa, vista la confidenza che ho con Cristiano. E è la prima cosa che mi è andata sott'occhio, anche perché, volenti o nolenti, Malgioglio ha scritto una grandissima parte dei successi pop italiani degli anni 70, comunque, volenti o nolenti, ha costituito una grossa parte della musica scritta del pop italiano di quegli anni. Però mi dicevi che eri andato a raccogliere anche altre informazioni su Daniela Davoli, di cui io non conosco migliori praticamente niente. Io ho potuto ricavare solo quello che ho letto dalla copertina e dal centrino del disco. niente di più. Anche una bella copertina, un bel primo piano. Anche questa copertina è molto stile anni cavallo 70-80. Sì, con questo capello laccato, 78, molto, sì, molto vaporoso. Sì, no, lei ha fatto un... lei è originaria di Pisa nel 57. Una pisana. Pisana. E trasferita a Roma per portare avanti la sua carriera di cantante, eccetera. Nel 74, grazie all'incontro, alla conoscenza, all'amicizia con Pasolini, che la invoglia e la porta a registrare il suo primo singolo. Quindi sì, diciamo la sua carriera parte con questo giro, con questa conoscenza. Poi vabbè, da lì parte tutti gli ingaggi con la partecipazione a Sanremo, che se non ricordo male ha partecipato a un'edizione di Sanremo, e l'incontro con chi si diceva prima, eccetera. Da lì parte un po' il successo, seppur piccolo, perché comunque io non nascondo che non conoscevo Daniela Davoli. Anch'io lo ammetto, alzo la mano per riconoscere la mia ignoranza. Però e quindi questo brano C'ha il suo perché. E quindi andiamo tutti insieme a colmare la nostra ignoranza. La mia e la tua? No, no, la speriamo che ci sia anche qualcun altro che ci farà compagnia nella nostra ignoranza e con cui potremo dire di aver colmato questa nostra lacuna con il guerriero di notte. Con il guerriero di notte, ovviamente qui a Radio Wombat Cultura, Basement Records. Daniela Davoli, guerriero di una notte. Il tuo ritorno, io come vedi il tempo consuma tutto, sento che adesso mi ami tu, anche se poi è così tardi. Accendevo i falò per te e non avrei pensato di piangere sul tuo petto. Io cado giù, poi mi accarezzi tu, ma il cuore no, padrone non ha più. Adesso vai. Penso no, ai colpi non ci sto, anche se poi perdo la testa. Adesso vai, vai, vai. Ci siamo appena ascoltati appunto questo brano di Anna Maria Fiorillo, detta Daniela Davoli. In arte. In arte Daniela Davoli, ovviamente. Mi garba un casino questo brano. Come? Mi garba un casino. No, brano. Figa, guarda, si diceva appunto in fuori onda mentre ce lo stavamo ascoltando questo grasso basso funky che si sentiva sotto. Cioè, certo, l'influenza da classifica, l'influenza pop di un autore come Malgioglio si sente, però c'erano anche veramente c'erano degli innesti interessanti, ecco, questo basso che visto gli anni ci riporta all'esplosione della disco americana, che penso l'abbiamo voluto un po' riportare in questa atmosfera danzericcia da classifica italiana di fine anni 70 ci poteva stare, via, ci stava tutta. E vedo di là un altro nome estremamente conosciuto di qualche anno prima, uno dei cosiddetti ragazzi della Via Gluck, del clan di... 20 anni prima di lei è nato lui. Eh sì, decisamente, era un'altra, di un'altra generazione, direi, sì. 39-57, sì, un'altra generazione. Sì, sì, sì. Però lei di Pisa, lui di Santa Croce sull'Arno. Ah, non sapevo che fosse toscano, tra l'altro. È toscano, sì, sì. Non avrei, non avrei mai immaginato. Sì, quindi lì dalle parti del comparto della pelle. Esatto. Avrà fatto il pellettiere il nostro. Cerchiamo su Wikipedia, ma può essere. Figuriamoci. Il soggetto in questione era appunto uno dei pilastri del clan di Celentano. Stiamo parlando di Don Bachi, autentica leggenda del pop italiano della fine degli anni 60. Esatto. E appunto poi è entrato in contatto con Adriano Celentano e hanno un po' importato quell'indole rock, sì, nel pop italiano. Celentano ce l'ha. Sì, sì, sì, assolutamente. Una delle cose che secondo me gli va riconosciuta più di e tutti. Che è apprezzabile. Sì, sì, sì, sì, riconoscendolo in un ambito puramente pop, è stato uno di quei, è stato sicuramente il, forse quello, il primo di quelli di maggior successo, sì, ad aver implementato la verve del rock and roll proveniente da oltreoceano nella musica italiana, ma soprattutto cantandola e scrivendola in italiano. Sì, sì, sì. Perché vorrei ricordare, come sempre, che era uso e costume negli anni 60 e negli anni 70 riprendere i grandi successi internazionali, quindi internazionali in ambito musicale di quegli anni, parliamo sempre, anche se diciamo internazionale, più o meno si parla quasi sempre solo ed esclusivamente di America e Inghilterra. Certo. Riprendevano esattamente la stessa canzone, però gli cambiavano le parole. Giusto, le parole. Certo. Solo le parole, la musica rimaneva uguale, con adattamenti e traduzioni più o meno fedeli da quelle proprio... La mattina all'oro in bocca, ma questo forse era nel cinema. Esatto. C'erano alcune proprio traduzioni che erano proprio letterali, esatto, e altre, probabilmente per questione di metrica della lingua, venivano completamente stravolte. E uno dei... credo dei più grandi meriti del clan di Celentano dei primi anni 60 fu appunto reinterpretare il rock proveniente dai paesi anglofoni e riscriverlo proprio direttamente, comporlo direttamente in italiano, non trascrivendo semplicemente la traduzione. E diventava più accettabile. Esatto, esatto. Cioè, non era un mero scopiazzamento, sì, ma era, diciamo, già un tentativo di reinterpretazione di questi, sì, nuovi input che arrivavano dall'altro continente, sì, che possono o da oltremanica. Meno, sì, sì, sì, esatto. Una delle cose che vorrei riconoscergli è quello, appunto. Concordo. Ci andiamo ad ascoltare Don Bachi? Lo facciamo, l'artista del 1979, testo interessante, parla del tipo che è un po' timido a salire sul palco, a cantare, però Quindi ti pensi anche un po' autobiografica? non so, non mi sembrava molto timido sul palco. No, ma io arrivo lì e poi faccio le mie cose, vengo via. Sì. Però, no, era interessante, mi è piaciuta soprattutto la parte musicale, la parte testuale forse, non lo so. Mi era piaciuto anche un altro brano di lui che però non ho scelto, che era Non me ne importa niente. Ah, I don't give a fuck. Mi è sembrato moltissimo una situazione molto... molto precursore del punk, se potrebbe dire, eh? Sì, no, avevo sentito quest'altro brano di lui in un 45, che non ho portato qua, che mi sembrava tipo una sfida tra lui e 10 ragazze per me. In questo brano Non me ne importa niente, e la sua un pochetto più meno commerciale, l'altra molto più conosciuta. Però poi alla fine ho scelto l'artista perché... Sentiamocela, mi fido ciecamente. E qui siamo sempre, è inutile ricordarvelo, spero che lo saprete anche da voi, a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no... Lentamente il silenzio si sente nell'ampia platea stracolma di gente. È il momento che tanto hanno atteso, col fiato sospeso aspettano me. In quell'attimo che ci separa mi passa davanti la vita mia intera. In quell'attimo che sto per uscire mi sento morire, so anche il perché. Poi l'annuncio così familiare mi viene a svegliare, batte il mio cuore sotto terra, vorrei sprofondare ma non c'è più tempo, sono io, devo uscire. La gente è già esplosa, qualcuno mi porta un fascio di rose. Dolcemente il silenzio discende nell'ampia platea stracolma di gente. Circondato dal raggio di un faro mi sposto sul palco col passo leggero. Piano ci scioglie il terrore ed il batticuore calmandosi va. Una voce gridando di cuore, sei grande amatore, sei l'unico amore. Lentamente comincio a cantare, l'orchestra mi segue, mi par di volare. Sento d'intorno più del primo giorno, felice mi fa quando ancora la testa confusa è forse un po' illuso, pensavo che a me fosse tutto dovuto dal fato, per questo bel dono che il cielo mi ha dato. Quest'ora io sono il padrone e la folla estasiata che scruta ogni piccolo gesto, ogni piccola nota. ed a voi dono tutto il mio cuore, la grande fatica, l'amore, il sudore, e all'artista che sta sulla scena dovrete soltanto quest'ora serena. Ci eravamo persi in considerazioni, ovviamente, come tutte le volte che mettiamo su un vinile vengano fuori un sacco di pensieri, e anche la bellezza, appunto, di andare a recuperare le cose del passato, è un po' la materia fondante su cui si basa e viene costruita Basement Records. È anche giusto così, ecco. E il prossimo disco è un disco misterioso. Molto misterioso, perché non siamo riusciti a risalire poco o niente di questo gruppo, che sono, ve li dichiarerò subito, i Matthews and His King's Port Band, che è lui più la band King Port. Sì, la band sono i King's Port, e da quanto posso vedere dal centrino, che è una delle poche cose di cui possiamo andare a ricavare delle informazioni, alcune sono delle cover prese dalle colonne sonore di film famosi. La prima che vedo qua è Un uomo e una donna, che è Man and a Woman, la prima traccia di questo lato. Poi vedo Yellow Submarine dei Beatles, Strangers in the Night. His name. Sì, un sacco. Disco riporta anche distribuzione società Trevisan Combo Record, Corso Europa Milano, poche altre informazioni. Anche l'etichetta, almeno per quanto mi riguarda, praticamente... E vogliamo parlare della copertina. Vabbè, la copertina è una coppia che passeggia su una spiaggia, evidentemente all'interno di una baia indefinita. E non abbiamo molti altri riferimenti, anche la copertina è abbastanza anonima. È meravigliosa la copertina, anonima nel senso, la fotografia è molto bella, però potrebbe essere, che ne so. Non so se l'avrei usata per una copertina, no, sinceramente. No, sembra una foto di una vacanza. Sì, di due esatto. Che sono lì. Che hai chiesto a qualcuno di farti una foto, tra l'altro. E anche questa società Trevisan Combo Record. direi che è abbastanza misteriosa, ma siamo qui apposta. Tra l'altro, ora avendo la copertina proprio tra le mani, vedo che anche la prima traccia del secondo lato è il rifacimento di una grande colonna sonora, ovvero quella del Dottor Zivago. Ah, già, è vero, bellissima anche quella. Esatto. Era un certo tra quella e quella che metteremo. Composta da Maurice Jarre, tra l'altro. Poi riconosco così a occhio nel secondo lato Spanish Harlem. Esatto, bella, e bella. Riderà, sì, riderà. Fantastica anche lei. Quindi direi più che altro delle cover, e ci andremo a ascoltare, quella che andremo a ascoltare è una cover, un classicissimo. Che nella sua versione più famosa, credo sia stata quella più famosa, l'hanno reinterpretata penso in 8 milioni. Tantissimi. A me piace quella dei Coil, quasi... però per una deformazione elettronica professionale. Va bene. Penso che l'abbia reinterpretata un po' la qualunque, sì. di qualunque ambito musicale, di qualunque tempo, e stiamo parlando di Bang Bang. Credo che sia di Sonny Bono. Credo sia stata composta da Sonny Bono. E appunto la versione più famosa che mi viene in mente è quella della figlia di Frank Sinatra, di Nancy Sinatra. Sì. Che bello, eh? A me piace tantissimo quella versione. E adesso ci andremo ad ascoltare la reinterpretazione di Matthews and His King's Poor Band qui a Basement Records, Radio Wombat. Recuperi vinilici. Questo era Matthews con His King's Poor Band, e questa era Bang Bang, originariamente scritta da Sonny Bono e resa famosa da Nancy Sinatra, dalla figlia di cotanto fa, di cotale padre. Di cotanto padre. Esatto. E ora, anche il prossimo disco direi che ha delle storie da raccontare. Infatti andiamo a parlare di un grande sassofonista, cioè di un grande sassofonista molto conosciuto quantomeno a livello italiano, e vorrei raccontarvi un aneddoto appena chiuderò la porta della regia. Eccomi, sono tornato, ho fatto presto. Fausto, il prossimo artista di cui andremo a parlare è appunto Fausto Papetti, sassofonista italiano dell'inizio degli anni 70. E di Varese. Di Varese. Del 23. Ah, del 23? Così ho letto. Quindi, non insomma, ce l'ho tutte nella mia testa queste informazioni, ma... Sì. Non pensavo fosse così che... Che fosse nato in quegli anni, va bene, a parte questo, però il mio primo ricordo da bambinetto di Fausto Papetti non è tanto per la sua musica quanto per le leggendarie copertine dei suoi dischi, leggendarie almeno per quanto mi riguarda, perché fondamentalmente, ora mi vergognerò un po', però tanto in radio non mi si vede... E va bene così, perché erano praticamente le prime tette che vedevo ed erano sulle copertine dei dischi, quindi era per il pena poco di quegli anni, quando mi capitavano appunto, cioè ero molto piccolo, non ero già in una fase successiva. Però ecco, il primo approccio con Fausto Papetti che ho nella memoria era... La musica veniva dopo. Appunto queste copertine che rimanevano impresse nella memoria di un fanciullo, ecco. Oh, guarda! Però in questo caso non stiamo parlando di una di quelle copertine, perché no, c'è un disco. Il buon Leo credo che mi abbia portato una delle poche copertine, forse l'unica copertina di un disco di Fausto Papetti che non è a questo tema di cui stavamo parlando fino adesso. Che è il disco d'oro di Fausto Papetti, Sax, quindicesima raccolta, che è una foto di un bellissimo vinile d'oro, perché è un disco d'oro, cioè da un estremo a un altro, quindi dalle nudite all'anonimato più totale. Nel mondo c'è scritto sotto, quindi, cioè, però qui si passa alla musica. La prima versione della tua visione era più... Il primo impatto era stato quello. Però a quanto pare, a quanto vedo da questa copertina, Fausto Papetti deve avere anche raccolto un discreto successo. Ma infatti, essendo arrivata al disco d'oro, se lo apri il vinile, ecco, riporta le vecchie copertine, tra cui posso vedere una signorina in spiaggia. Vedi, delle gambe così. Non le possiamo vedere in radio, sotto, è un peccato, però. All'interno del folder del vinile, sotto il titolo raccolte, c'è appunto una ci sono un po' di copertine storiche del buon Fausto, che, da quanto posso vedere dalla copertina, era un tenor sassofonista, sì. a quanto pare, cosa che non ricordavo, perché nelle copertine non si capiva che tipo di sassofono suonasse. È un tenore. Così dall'interno si capisce che è un tenore. E su etichetta Durium, tra l'altro, leggo dal centrino. Durium, sì. Stereo compatibile. Anni, lo sappiamo? Abbiamo un 73. Ah, 73, quindi inizio anni 70. E andiamoci ad ascoltare questo must della discografia italiana dell'inizio anni 70. Che? Sì? Poi mi stavo chiedendo, il compositore di queste musiche, io le ho trovate in Wendy Carlos. Ah, veramente? Dovrebbe, ma non sono sicuro di queste informazioni. No, l'originale credo che sia di Wendy Carlos, perché stiamo parlando, in questo caso, la reinterpretazione di Fausto Papetti del tema tema di Arancia Meccanica di Kubrick. Sappiamo che il buon Stanley si affidava a quel genio di Wendy Carlos, uno dei grandi pionieri del suono sintetico degli anni 70, un vero fondatore, fondatrice del suono sintetico ai suoi esordi, anche perché appunto usava strumenti elettronici che erano assolutamente all'avanguardia per quegli anni. Sì. Cioè, era stata fatta la prima registrazione col vocoder nell'occasione di Arancia Meccanica. Voglio ricordare una cosa che mi piace sempre. Mi piace sempre ricordare, appunto, quando andiamo a parlare dei sintetizzatori, se questo disco è del 1973 di Wendy Carlos, voglio ricordare che appunto il primo LP suonato con l'archetipo di quello che poi diventerà il Mood Standard, dato in anteprima ai gruppi degli inizi che lo volevano usare, Robert Moog dette appunto ai Popul Vuh, gruppo leggendario di krautrock, il benestare per l'uso del suo piano sintetico, che ricordo in quegli anni, all'inizio degli anni 70, nelle prime versioni sperimentali del Moog, cioè era grande quanto una parete di una casa, probabilmente, dimensionalmente parlando. Stiamo parlando proprio di tempi pionieristici. Pensate che ora è un plugin sul computer. Esatto. E invece in quegli anni era grande quanto una parete di casa. Fantastico. E allora andiamoci ad ascoltare questa reinterpretazione del sax di Fausto Papetti del tema di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, ovviamente qui a Basement Records, Radio Wombat, dove se no. questo era la reinterpretazione di Fausto Papetti del tema di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. E ora, come uso e costume, facciamo un salto carpiato triplo. Ma triplo, triplo, non due e mezzo, eh? No, qui è proprio non estremo. Due e mezzo, ma solo triplo. Però questo era il repertorio di dischi che offriva. Esatto, esatto. E quindi se ascoltavate abitualmente Basement Records, non vi racconto niente di nuovo dei nostri salti carpiati da un vinile all'altro. Però era un vinile, un ritrovamento vinilico che sicuramente vale la pena di andarci a riascoltare. Infatti stiamo parlando di quest'artista che poi è andato a farsi chiamare e ha scelto il nome d'arte di Vrindavana. Quindi vi potete già immaginare su che linee d'onda, su che lunghezze d'onda ci andremo ad attestare adesso. Infatti stiamo andando nell'ambito della musica indiana e io sono a proposito di Vrindavana abbastanza ignorante. Anch'io l'ho trovato, l'ho preso, ho detto ah, guarda. Il disco non ci offre molte informazioni nulla, ulteriori, zero. Se non una classicissima copertina con un'iconografia tipicamente induista e scene diciamo bucoliche per quanto possa riguardare l'ambito lì, indiano, esatto. Potrei definirle così, con immagini di bambini che portano quelle che potrebbero sembrare le 10 tavole dei comandamenti ma di no, Mosè. Sono microfoni in realtà, no? No, non credo, sono tavolette, no, no. Sembrano tipo tavolette di lavagna con scritto sopra qualcosa. Un tempio con un sacco di gente, quello che probabilmente era un baba o un qualcosa di molto simile. E il buon Vrindavana che suona le tablas così a occhio. La copertina è meravigliosa, sì. Comunque il disco è tutto molto bello, molto, molto ridondante, sono interessante. Prima di scegliere il brano, quando l'ho ascoltato, ho fatto una bella immersione, carina. Comunque sì, ho scoperto che i brani sono scritti da un certo, non vi pronuncio il nome, però no, è no, ora ce lo pronunci perché sennò non la finiremo mai. Swami è il cognome, il nome non ce l'ho scritto, quindi non ve lo pronuncio per quello. Oh, va bene. Lui comunque è personaggio statunitense, si parla degli anni 70. Ah, quindi Vrindavana era uno Yankee che poi si è perso. Lui era un... Si è perso sulla via dell'induismo. Un sannyasi che si è trasferito all'età di 16 anni in India per continuare il suo percorso spirituale, quindi si parla ma di a continuare il suo percorso spirituale a Goa o in un posto serio? Io credo forse in un posto serio, perché poi è inciso, quindi ha fatto o era andato a fricchettonare. No, non è andato proprio a fricchettonare, lui ce l'aveva proprio secondo me dentro in maniera importante. No, da ora al di là serio, delle battute. Al di là delle battute. Dalle immagini sembra uno abbastanza sì, dentro sì, a quella, sì, molto quella dentro, situazione. Certo, sì, sì. Sì. Cioè, pensando... Non è che ci sono immagini di feste. No. Se poi faceva parte di quel gruppo, loro sono tipo le parti spirituali che sono. Cioè le parti di credo che sono a enfatizzare l'ultima parte di esistenza prima del lascito della materialità per andare verso la parte spirituale. Quindi poi l'incontro con la musica, non so se è stato successivo, se si è trasferito a 16 anni forse sì che a 16 anni credo l'ambiente musicale fossi indiano. Abbastanza convinto se poi ci sei rimasto sì, lì sì, sì, sì. E se proprio volete e vi interessa molto la musica indiana, io non posso che fare dell'autopromozione e invitarvi a andare a recuperare una vecchia puntata, neanche più, vecchia più di tanto, di Tonight Alive, dove con il leggendario Ustad Saregamo e il professor Apollo siamo andati ad analizzare per 3 ore e mezzo la musica del nord dell'India, con la musica rigorosamente religiosa del nord dell'India. Quindi stiamo parlando dei raga indostani. Okay. Però ecco, la parte promozionale interna adesso è finita e, figa, però. E ascoltiamoci Vrindavana con questa Srita Kamala del 75, del 1975, qui a Basement Records, Radio Wombat. Garuda Shana, Surakula Kelini Dhanda. Questi erano i Vrindavana, giusto per fare un salto dall'altro lato del mondo, perché appunto in questo modo ci si sono aperte le porte della world music. Non era che era stato messo così a caso Vrindavana, ah, no. non penserete mica a queste cose. Infatti proseguiremo nell'ambito della world music, ci spostiamo praticamente in un altro emisfero, e dai territori mistici indiani ci ritroveremo nelle torride e calde atmosfere della musica e umide della musica cubana, con uno dei leggendari band leader e compositori della felice isola caraibica. Stiamo parlando del mitico Xavier Cugat, anzi Xavier Cugat, esattamente. In questo particolare disco, edito da RCA Records, è affiancato dalla cantante Abby Lane. C'è anche la storia dietro, C'è anche la storia, non so se... Sono dischi informativi questi, ti danno tutte le indicazioni che vuoi dietro. Lo vogliamo leggere? Lo vogliamo leggere? Allora, io più che leggere di Xavier Cugat, che appunto, ve l'ho detto, era un band leader leggendario della musica cubana, leggerei un paio di notizie su Abby Lane, appunto. Piccanti? Lo scopriremo solo leggendo. Passatemi la frase. E proprio qui, essendo questa un'edizione in italiano, vi leggo proprio testualmente cosa c'è scritto sulle note di copertina, passando appunto alla descrizione, oltrepassando la descrizione e la presentazione di Xavier Cugat. E Abby Lane ci viene chiesto: Abby Lane è stata il sogno proibito di milioni di telespettatori, e la... piccante, direi di sì. E la TV non era ancora a colori ed era assolutamente proibito mostrare le gambe, ma noi le indovinavamo sotto gli abiti a guaina che Abby indossava con rassegnazione. Lo spacco ai lati c'era, ma la sua apertura massima era stata accortamente calcolata dagli addetti ai lavori, i biechi censori della nostra TV italiana degli anni 50, e non si vedeva più di tanto. Scherzi a parte, tutti noi conserviamo un piacevole ricordo di Abby Lane, la rossa e procace consorte del flemmatico Xavier, quindi era sua moglie, che a tempo di rumba, mambo e di cha cha cha ha allietato tante nostre serate di anni certamente più frivoli e spensierati. È meraviglioso. Che meraviglia. Xavier Cugat e Abby Lane li abbiamo nuovamente riuniti per voi, per portarvi indietro almeno con il pensiero di 20 anni, e scusate che se è poco. Questi 20 anni penso ci possiate aggiungere almeno altri 30 o 40 almeno. Anni tranquillamente, e quindi lui era del 900, fate voi il conto. Xavier Cugat è roba, appunto, io credo che siamo a cavallo tra gli anni 50 e 60 della musica cubana, anche se credo che sia giunto al successo, però è nato nel 900 realmente. Credo che sia giunto al successo in ambito occidentale in tardissima età, roba tipo negli anni 70 da noi, ma credo, non mi vorrei sbagliare come al solito, ma credo che comunque fosse attivo e famoso nei Caraibi già a cavallo tra gli anni 50 e i primi dei 60. Probabilmente sì, poi è entrato anche un po' nel giro cinematografico. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. No, poi con l'esplosione del mambo e della musica cubana, esatto, di Perez Prado e di tutto il resto dei grandi, senza parlare degli ultimi anni, dei Buena Vista Social Club, certo, sì, sì, roba e compagnia cantante. Però insomma gli anni erano quelli, credo che siamo a metà del Novecento, sì, sì, sì, più o meno. E 70 anni fa, eh? Eh sì, no, non lo diciamo troppo tanto, forte. Non lo diciamo troppo. Un vinile che suona ancora dopo quasi 70 anni è incredibile. Esatto, esatto. Non è un file. No, appunto, no, ma è... poi qua si entrerebbe in un argomento talmente vasto della differenza dei supporti fisici da quelli, diciamo, digitali o liquidi, come li vuoi chiamare. Aprirebbero una parentesi che farebbero fare ai nostri cari ascoltatori le ore già piccole di suo, ma piccolissime direi per stasera, quindi vi lasciamo a voi questo compito di approfondire le varie vicende dei mitologici musicisti dell'isola caraibica di Cuba, e ne vale assolutamente la pena perché hanno fatto, penso, la storia quantomeno di una frazione di un continente. E questo appunto è Xavier Cugat con la sua mogliera Abby Lane, e la canzone che abbiamo scelto per voi da questo vinile portato di recupero qua dal buon Leo è Malaguena. Malaguena. Malaguena, e te l'hai pronunciato meglio, bravo. Malaguena, sì, c'è il... sono un po' di Sesto io. Anch'io, eh. Malaguena. Malaguena. Malaguena di Xavier Cugat e Abby Lane qui a Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? We'll be right back. Siamo tornati, sto mangiando, ma non ci fate caso, tanto vabbè, ormai sarete abituati lo stuzzichino al degenero delle tarde ore di Radio Wombat. E da un band leader all'altro, sempre tra l'altro della stessa edizione di questi vinili RCA linea 3, tra l'altro anche questo è lo stesso di quello di prima, è la stessa collana del precedente Xavier Cugat. E qui andiamo sul piatto, abbiamo un altro band leader di cui conosco sinceramente molto molto meno rispetto a Xavier Cugat. Ma leggo che qua è un altro cubano, Morton Gould, anche se dal nome non si direbbe, però a quanto leggo... No, ma lui è statunitense. E infatti dice, nato a Guanabacoa, Cuba, nel 1896... Lui è Ernesto... Ernesto Lecuona, che era il compositore di cui Morton ha interpretato, vedi? Con le sue orchestra, ecco, mi mancava un pezzo. Sì, quindi i brani sono di Ernesto. E però appunto gli arrangiamenti sono di Morton Gould, che era nato a New York nel 1913. Un personaggio di successo, credo, un direttore d'orchestra pianista famoso. E compositore, sì, fanciullo, sì, prodigio. Prodigio, dell'Institute Musical Art. Addirittura. Accidenti. Però è andata a ripescare lui cubano, tirando fuori quelle che erano le sue opere, le sue scritte. Infatti... tra i brani che sono contenuti in questo vinile c'è anche la reinterpretazione di Morton Gould del brano precedentemente ascoltato, appunto, di Xavier Cugat, che era Malaguegna. Esatto. E c'è anche Malaguegna in versione, appunto, di Morton Gould, da quanto vedo. Che non so se è su questo vinile. È esattamente su questo vinile, ed è la traccia precedente a quella che ci andremo adesso ad ascoltare. Non mi ricordavo di questa. Esatto. No, che incastri troviamo. Vedi, ma solamente perché ho sotto mano appunto la copertina. E vedo che questa raccolta, ovvero linea 3, è disponibile anche in versione stereo 8 e stereo cassetta, con lo stesso numero di catalogo. Vedi, fantastico. Che meraviglia. Non lo danno come cosa. Scusa la mia ignoranza, sappiamo niente di questa versione stereo 8. Che io di questa versione stereo 8? Fammi vedere se ho trovato delle informazioni. Che cos'è la versione stereo 8? No, non ho nessuna informazione, non ho controllato. Quindi facciamo finta di niente. Facciamo finta di niente, la mia... Fate come se non abbiamo come se non avessimo detto niente. Se qualcuno, qualche caro ascoltatore o ascoltatrice ha... Di stereo 8. Informazioni supplementari per quanto riguarda lo stereo 8, lo invito a scriverci a postawombat@insiberia.net con l'espresso incipit per Basement Records, così proseguiremo nella nostra istruzione e nel riempimento della nostra profonda ignoranza. E al di là delle facezie, dobbiamo assolutamente e possiamo andare a sentire adesso questa In 340 Time in 3/4 time. In 3 quarti tempo. Come se... tre quarti. Sì, no, quello l'avevo intuito, pensavo, ho voluto fare troppo lo splendido, però facciamo finta di niente. Intanto ho trovato lo Stereo 8, che cos'era? Era un formato... Sì, quello no, quello me lo immaginavo, però... Io non lo ricordavo assolutamente, un nastro in Stereo 8 era ma quindi su un nastro? Formato di nastro in Stereo quindi 8. Quindi su un nastro? Parla di, sì, qualcosa similare alle... Quindi roba da montare su un Revox, una cosa del genere. Esatto. Mamma, aveva questo formato. Sai quanti loop ci avresti potuto fare? Meraviglia. Ma domani mi cercare il Super 8. Non il Super 8, lo Stereo 8, ma mi sa che periodo era analogo, era quello. Ah, è vero, Stereo 8, non Super 8. È vero, è verissimo. Banda alle ciance, ciancia alle bande. Andiamoci ad ascoltare appunto questo Morton Gould and His Orchestra con In 3/4 Time da Danzas Cubanas. Molto orchestrale questo Morton Gould e la sua orchestra, se no dice l'orchestra che ce l'aveva a fare, giustamente. E a proposito di salti tripli, ma parecchio tripli, sono rimasto leggermente indietro con la scansione dei vinili. Aspetta, ora te lo do, ce l'ho qua. No, non era... Avevo ancora sui piatti due... il vinile di due pezzi fa, ero rimasto un po' indietro in chiacchiere. E quindi ancora devo riporre questo Morton Gould e devo porre sul piatto il nuovo arrivo. Quello che poi andremo ad ascoltare, artista che dicevamo appunto fuori onda, ma è anche bello così, sì, dai. Di cui non conosco praticamente niente, però dal titolo del brano che hai scelto intuisco che sia un italiano e un chitarrista. È molto italiano. Aspetta prima di darti il disco, perché poi lo metti dalla parte sbagliata, ti dico qual è la canzone, perché me l'ero scritta che ce n'erano due che mi piacevano, ma una era più un ricordo di infanzia legato a... Hai visto quelle cose che senti quando sei bambino? Proprio e, piccolo, te le ricordo, e poi ti ritornano in mente anche negli lì, anni. Poi quando tu mi dici prendi i dischi a casa di tua madre o a casa così e li portiamo in radio, te l'ascolti e dici porca puttana. E quasi ti vengono le lacrime. E quindi chitarra... Dai, facciamola due, dai. La facciamola due? Qua, sì. Mi ponga il vinile. Parliamo di una persona molto conosciuta che è Enrico Musiani. Mio padre era molto affezionato a lui, non so perché, però mi ricordo che questo disco l'ho sentito suonare un milione di volte in casa. E chitarra vagabonda mi era sempre presente. Chitarra romana un pochino meno, forse, è quella che ho scelto. Bene. Musiani. Romano. Musiani. Stiamo parlando del 70... No, dell'80. Siamo all'inizio degli anni 80, quindi. Sì. Vuoi commentare la copertina di Musiani? Musiani lo vedo qua. Bello spavaldo, bello direi. Spavaldo. Bello spavaldo. Appoggiato a una carrozza, direi metà 800 inizio 900, così a occhio. Sì, sì. E niente, non vi posso dare altre informazioni se non che è edito dalla Duck Records, una sussidiaria della Dischi Ricordi. Io purtroppo non so molto altro su questo artista, quindi credo che non ci rimanga che andare ad ascoltarlo. Ma lo riconoscerà appena lo ascolti. Ve lo dico dopo. Questo è Enrico Musiani con Chitarra Romana, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Solitario il mio cuore disilluso d'amor vuol nell'ombra cantare. Sotto un manto di stelle Roma bella mi appare. Solitario il mio cuore disilluso d'amor vuol nell'ombra cantar. Una muta fontana e un balcone lassù. Oh chitarra romana, accompagnami tu. Suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornalina, al balcone non c'è più. Perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù. Oh chitarra romana, accompagnami tu. Thank you. la voce un po' velata accompagnami in sordina, la mia bella fornarina al balcone non c'è più. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. Sì, non ci accompagnare troppo però, chitarra romana. Bellina, bellina, bellina, direi... un ricordo dei vecchi tempi andati, cioè, tipo lo storlellatore di strada. Sì. Mi ha fatto tornare in mente quelle atmosfere lì. Ne valeva assolutamente la pena di essere ricordato questo Enrico Musiani, che, da quanto dicevamo fuori onda, era uno molto famoso nell'ambito della musica popolare romana. Io non lo conoscevo, grazie Leo per avermelo oggi riproposto e avermelo fatto scoprire. Però la chiusura è con il botto, perché è l'unico 45 che metteremo stasera, al di là della sigla. Infatti erano tutti 33, erano tutti LP. È vero, erano tutti 33. Erano tutti LP, ma questo è... Che 45, che gran singolone. Infatti stiamo parlando della prima edizione italiana di Trans Europe Express dei Kraftwerk. Penso che sia definirlo una pietra miliare della musica elettronica sia veramente riduttivo. E il pezzo che che andremo tosto ad ascoltare è uno dei pezzi più famosi della leggendaria band elettronica tedesca, ovvero Trans Europe Express. Fu il pezzo che le fece riconoscere in Europa, ma soprattutto in America, perché quando questo gruppo, allora mi sconosciuto, riuscì finalmente attraverso gli export di vinili, riuscì a varcare l'Atlantico e arrivò tra le mani dei ragazzi afroamericani dei ghetti di New York, Chicago e Detroit. Fu un vero cortocircuito, perché fu riconosciuto da tutti i fondatori di quello che sto dicendo, una delle pietre miliari su cui poi si sono fondate le nascita e l'evoluzione di due generi almeno a me e credo a noi molto cari, come la techno e la house. Infatti tutti i padri fondatori di questi due meravigliosi stili elettronici riconoscono come padri fondatori della loro arte i mitologici Kraftwerk, che adesso andiamo ad ascoltare nel loro singolo forse di maggior successo di quegli anni, quello che gli fece fare il grande salto dell'oceano, e stiamo parlando di Trans Europe Express, e questi sono i Kraftwerk, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. leave Paris in the morning with TEE. Trans Europe Express. Meraviglia, che dire, è talmente meraviglia che non ci accontenteremo qui e vi faremo ascoltare anche il lato B di questo meraviglioso singolo, ovvero Franz Schubert, che credo brano dedica al grande compositore teutonico. Assolutamente sì. Che cosa aggiungere? Ascoltiamocelo, punto e basta, no? Mi sembra proprio il minimo. Almeno abbiamo fatto di questo singolo leggendario, storico. Mettete tutti gli aggettivi che volete. Almeno ci ascolteremo lato A e lato B. Che anche il lato B ne vale assolutamente la pena. Assolutamente. Con i suoi frusci, le sue cose. E questo è Franz Schubert, sempre dei Kraftwerk, qui a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. Ed eccoci, stavamo apprezzando appunto fino in fondo questo omaggio al grande Schubert fatto dai Kraftwerk. Stavamo appunto dicendo probabilmente una totale trasposizione della partitura di un pezzo di Schubert, dovrebbe in chiave elettronica, riscritta appunto per i synth del periodo. Ora questo lo dovremmo chiedere domani alla Fuga del Gatto, alle esperte di musica classica di Radio Wombat, che vi attenderanno come sempre per domani pomeriggio qui sulle frequenze di Radio Wombat. Non vi sto qui a rinnovare l'appuntamento con la programmazione domenicale di Radio Wombat, che è fittissima: il notiziario anticlericale, la Fuga del Gatto, Poi You Eat, la replica di Wook Wops, ce n'è. Domani palinsesto veramente fittissimo, il furto di trasmissioni altrui, chi più ne ha più ne metta. Il palinsesto di Radio Wombat è veramente veramente veramente molto fitto, come saprete. La domenica il tutto partirà domani mattina alle 10 con Container, con tutti i contributi che sono arrivati qui su Radio Wombat e non hanno trovato spazio nelle varie trasmissioni della radio. Ve le potrete ascoltare subito domani mattina alle 10, come sempre ogni domenica mattina, per poi proseguire con il notiziario anticlericale e poi via via tutto il resto della programmazione della radio. E a questo punto io non posso fare altro che ringraziare di tutto cuore qui il buon Leo per le meraviglie che ci ha portato qui a Basement Records per farcele riascoltare, per farcele riscoprire. Io ti faccio un grandissimo ringraziamento e grazie a te per l'invito e non posso fare altro che appunto rinnovare l'invito qui alla radio. Facciamo con la seconda tranche assolutamente con eventuali altri grandi ritrovamenti vinilici, quando vuoi. Sai dove trovarci. Assolutamente sì. E quindi spero che questa collaborazione vinilica continuerà per me e per voi, per farci scoprire altre nuove chicche sepolte dalla polvere del tempo. E quindi, Leo, non posso fare altro che ringraziare te e tutti i nostri ascoltatori e augurarvi una buona prosecuzione di fine settimana, un buon weekend, e ci risentiremo settimana prossima, sempre di sabato per la diretta e di martedì alle 21 per la replica, sia per Tonight Alive che per Basement Records. E quindi a settimana prossima. Viva Wombat! Viva Wombat, grazie, ciao. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Bye.